Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Viacchessi. Questa è Italia in controluce, due edizioni quotidiane che raccontano ogni giorno l'Italia. Il 10 aprile del 1991, il giorno in cui il traghetto della navarma Moby Prince si schianta contro la petroliera Agip Abruzzo davanti al porto di Livorno. 140 morti, ad oggi nessuna giustizia. Questa sera alle 21 al Teatro Deon di Bologna va in scena lo spettacolo di teatro civile MT Moby Prince. Lo racconta per noi Marta Pettinari, che insieme a Francesco Gerardi è in scena nella narrazione. Dimmi quando tu verrai. Forza! Prima il camion con la barca! Dimmi quando. Venga a marcia indietro, quando, così! Quando. Bene? Bene! L'anno, il Stop. Giorno e l'ora. Buonasera! Biglietti per favore, grazie. Forse benvenuti a bordo. Proseguite a marcia indietro fino a prua seguendo le indicazioni del marinaio. Ogni adesso venga lei col fuoristrada targato Sondrio. Sì, poi la tipo, il pulino e la Diana in fondo. Sì signora, marcia indietro che Olbia attracchiamo di poppa così siamo già pronti per sbarcare. Biglietti per favore, benvenuti a bordo. Le prime auto iniziano a muoversi, superano le transenne e si infilano nella stiva. Le altre in coda a motori accesi illuminano coi fanali la fiancata bianca del traghetto. L'enorme balena che sorride e il nome della compagnia armatrice occupano gran parte del centro nave. Poi due linee orizzontali, una blu e una azzurra, corrono verso poppa, dove in alto spicca a lettere maiuscole il nome della nave, Moby Prince. Come raccontare una tragedia come quella del Moby Prince in teatro? L'obiettivo che ci siamo posti iniziando questo lavoro è stato quello di raccontare semplicemente tutte le cose che sono successe. Sembra banale, ma non lo è più di tanto. In una vicenda in cui in realtà sono state dette tantissime cose, sia pochissimo dopo il fatto che negli anni successivi, ma ancora a 20 anni oggi dall'avvenimento non si sa che cosa davvero è successo quella sera, il 10 aprile 1991, nella rada del porto di Livorno al traghetto Moby Prince. Dunque abbiamo cercato di raccogliere attraverso una ricerca che è durata quasi un anno una serie di materiali, quindi dalle perizie legali, medico-legali, a quelle tecniche, leggendo i verbali delle udienze, parlando con i testimoni, con chi ancora aveva voglia di parlare di questa storia, di raccogliere i più dati possibile, e poi li abbiamo messi tutti insieme e abbiamo costruito una cronologia. In questo modo ci siamo accorti di quello che in un determinato momento è successo, è stato riportato, è stato raccontato, è stato detto sull'incidente tra il Moby Prince e la Agip Abruzzo. Di conseguenza, automaticamente da questa cronologia sono venute fuori delle cose, sono venute fuori delle situazioni, sono venute fuori degli avvenimenti che sono successi in un momento e dopo ne sono successi degli altri. Quindi riportiamo nello spettacolo tutto quello che è successo, lasciando, dando per certo le cose che sono certe, per ipotetiche o possibili quelle che sono ipotetiche o possibili, e per sconosciute, quindi non le diciamo, non ipotizziamo quello che non possiamo sapere, perché di fatto non si sa e nessuno in 20 anni comunque è riuscito a capire che cosa è successo davvero. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare, riportiamo i fatti e cerchiamo di far sì che le persone che vengono a vedere lo spettacolo sappiano qualche cosa di più e possano, se vogliono, farsi delle domande sulla vicenda Moby Prince. Capitaneria di porto! Capitaneria, capitaneria! Cos'è quel fungo di fuoco in mare? Capitaneria di porto di Livorno, avanti pure, canale 13. Qui è l'Agip Abruzzo. Mi sa che c'è un incendio alla Gorgona. No, non è la Gorgona quella lì. E allora cos'è? Siamo incendiati! Siamo incendiati! C'è venuta la nave d'asso! A Livorno, in capitaneria, il militare di leva Gianluigi Spartano risponde: ricevuto Agip Abruzzo, stiamo provvedendo! Dietro di lui arriva l'ufficiale di guardia, Lorenzo Checcacci, che gli dice: vai Spartano, vai a preparare la motovedetta, qui rimango io. Spartano corre verso la banchina, Checcacci invece si sistema alla radio, parla con la petroliera. Cerca di raccogliere più informazioni possibili e intanto rassicura il comandante Superina che i soccorsi stanno partendo. Perché il teatro civile si sostituisce spesso alla cronaca e in qualche modo anche alle ingiustizie? Perché la vicenda di Moby Prince non ha avuto alcuna giustizia. Io credo che il teatro si occupi comunque della vita, racconta poi la vita, questo quando fai Shakespeare, così come quando scrivi invece una storia che riguarda la quotidianità, la contemporaneità, e comunque parla della vita nostra, insomma, di quello che succede a noi direttamente in questi anni. Il teatro, di conseguenza, raccontando questo, porta anche il punto di vista delle persone, che è diverso da quello della giustizia, e che è diverso da quello di chi che potrebbe avere delle responsabilità in una situazione come quella che si è verificata a Livorno quella sera. Prende il punto di vista delle persone, e le persone in questo caso chiedono giustizia, quindi chiedono alle istituzioni, chiedono a chi dovrebbe stabilire delle responsabilità e punire le persone che hanno avuto queste responsabilità di fare qualche cosa, o come minimo chiede all'opinione comune comunque di prendere consapevolezza di una vicenda che è stata molto velocemente dimenticata e che appunto oggi, nonostante siano passati 20 anni, non ha avuto giustizia. Io sono stata alla commemorazione a Livorno, che c'è stata il 10 aprile, c'era tantissima gente, è stato paradossalmente bello, nel senso che comunque c'erano tantissime persone, e quello che i familiari continuano a chiedere, e credo non smetteranno di fare giustamente, è chiedere giustizia, quindi non rassegnarsi, non dimenticarsi comunque, beh, loro ovviamente non possono dimenticarsi di questa cosa, ma non vogliono che nessuno se ne dimentichi, e anzi chiedono che le persone che possono fare qualche cosa, ma anche tutti quanti noi, quindi i cittadini, si ricordino di questa cosa, non permettano che vada a finire nel dimenticatoio, che non se ne parli più, perché la giustizia la vogliono, sono passati 20 anni, per loro come se fosse passato un anno, 6 mesi, loro vogliono giustizia. C'era una maglietta che hanno fatto in occasione di questo anniversario, che dice quello che poi c'è scritto sullo striscione che va in giro per Livorno tutti i 10 aprile: Moby Prince, 140 vittime, nessun colpevole, punto esclamativo. Questo secondo me è un po' lo spirito anche che dovrebbe animare rievocare una vicenda, cioè non fare una commemorazione così fine a se stessa, ma chiedere qualche cosa. Si sono raccontate molte cose sul Moby Prince e sono state anche accertate alcune cose, ad esempio alcune stranezze. Andiamo con ordine. Questo buco dalle comunicazioni di quella sera del 10 aprile del 1991 nel porto di Livorno, cosa è stato accertato? Se parliamo di dati, il traghetto è partito dal porto di Livorno alle 22.14, più o meno 10 minuti dopo, 12 minuti dopo avviene la collisione. C'è un buco che va dall'ultima comunicazione radio che il marconista del Moby Prince fa alla stazione radio costiera di Livorno, tra l'altro per un motivo banalissimo, cioè chiedeva il collegamento telefonico a un fornitore di Olbia per ordinare delle pizzette che evidentemente gli erano finite, da trovare a Olbia direttamente il giorno dopo. L'operatore da terra fa presente al marconista che la frequenza radio, comunque la potenza del segnale radio, è bassa. La comunicazione comunque si conclude e 2 minuti dopo avviene la collisione. Quindi, se mi parli di comunicazioni, sicuramente c'è un buco di frequenza radio, nel senso che l'ultimo testimone di questa cosa è l'operatore da terra che gli dice appunto che la potenza radio è bassa. Successivamente, quindi 2 minuti dopo, avviene la collisione, lo stesso marconista fa la comunicazione di soccorso, quindi il cosiddetto Mayday, lanciano questo Mayday, però il segnale è talmente basso che non viene recepito dalla capitaneria di porto. Infatti uno poi degli indagati, comunque, che è poi stato anche processato, è stato proprio il militare di leva che quella sera era di servizio in capitaneria di porto, che stava alla radio, perché non l'ha sentito. Quindi la radio del Moby Prince, questo è stato appurato, aveva dei problemi, nel senso che erano state fatte delle riparazioni, non sempre il segnale era buono e quella sera probabilmente non funzionava bene. Poi rispetto a altre ipotesi ne sono state fatte tante, che ci fossero in quel momento traffici di armi, comunque che ci fosse addirittura una isolamento, diciamo comunque una impossibilità di copertura radio in quella zona per dei traffici strani che si stavano facendo nella rada, quindi attorno dove stava passando il mobile in quel momento. Se però mi parli di cose che sono state accertate, ci sono delle testimonianze, sono state date appunto durante quegli anni del processo, di anche del marconista precedente, che appunto dice che comunque la radio del Mobile Prince aveva dei problemi. Questa è una cosa che è stata detta, che è stata anche appunto riscontrata, nel senso che ci sono delle testimonianze che ne parlano. Sicuramente, questa è forse l'unica certezza, il Mayday del Mobile Prince non è stato sentito, nel senso che la comunicazione di soccorso non è arrivata in capitaneria. Per questo motivo il Mobile Prince non è stato soccorso, cioè si sono accorti casualmente 2 ore dopo la collisione che si trattava di un traghetto passeggeri. Italia in controluce, seconda edizione, cercateci su Facebook, Twitter, a domani alle 6.30.